nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Straordinaria scelta di voi ascoltatrici e ascoltatori che siete già in ascolto di Non ci sono più le mezze stagioni. Ringrazio voi e quelli che verranno naturalmente. E sapete anche sempre qual è il nocciolo, non il nocciolo quello della fusione nucleare, ne abbiamo parlato già abbastanza in questi giorni, ma della trasmissione. Commentare insieme i fatti della settimana. Scegliete voi liberamente, come sempre, qual è la notizia che più vi ha colpito in questa settimana e potete così esprimere la vostra libera opinione. Un'occasione direi più unica che rara. 800 24 00 24 il numero verde, quindi gratuito a vostra disposizione. 800 24 00 24. Come sempre anche oggi ho un mio opinionista estemporaneo, davvero molto estemporaneo, ma ha voluto, diciamo, mettersi alla prova in questa sfida. Vedremo tra poco che cosa ci dirà, ma come sempre il rito che ho con voi tutti i sabati all'inizio è quello di dirci che cos'è che ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Beh, io direi che finora ci si aspettava che passasse sopra la testa, che so, a parte un aereo, ma una cometa, no? Ogni 100 anni, la meteorite, no? In questo periodo abbiamo aspettato la nube radioattiva che veniva dal Giappone, questo per dire come cambiano i tempi, anche se sembra, insomma, che si sia mezza dissolta, non so, adesso non l'hanno bene posizionata, doveva essere tra ieri e l'altro ieri sull'Italia, in particolare qua sulla pianura padana, però per il momento noi non siamo diventati fosforescenti. E al di là di questo, quello che però fa poi cambiare appunto anche ancora le stagioni che non ci sono più è la Germania. Con la cancelliera Merkel, la Germania è un paese piuttosto nuclearista, è sempre stato, e ha detto in questi giorni, proprio leggo la frase testuale, ha detto: questa catastrofe, quella giapponese, di apocalittiche dimensioni, ha segnato l'inizio di una nuova era. Nel senso che ha detto, meglio prima abbandoniamo, ha detto, per quanto riguarda la Germania, il nucleare, meglio è. Vedete come cambiano a volte le cose. Invece che cosa ci conferma? Che le mezze stagioni ci sono sempre, che i tempi non cambiano. Anche questa settimana uccise almeno due donne da mariti, ex mariti, fidanzati e ex fidanzati, di cui una anche davanti ai due figlioletti. Questo rimane proprio un trend dell'Italia ogni settimana, questo non ci sfugge mai. Vi ricordo, anzi ve lo ricordo dopo, tra una cosa e l'altra, tra le notizie ce ne sono moltissime, non c'è bisogno che io ve le ricordi, semplicemente cito molto velocemente i commenti che le ascoltatrici e ascoltatori hanno fatto sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Per esempio, su un video che il presidente del Consiglio Berlusconi ha fatto, per che poi magari lo sentiamo, per promuovere il turismo, ci sono dei commenti, cioè, per lo più, diciamo, poco favorevoli. Basta vedere, dice Massimo Di Diego, ed ascoltare le pubblicità turistiche che gli altri paesi trasmettono in Italia per fare subito un facile confronto. Inutile negarlo, è la solita trovata propagandistica, dice. Poi Stefano: in questo momento, dopo tutto quello che è successo, direi che non è un buon testimonial. Tatiana: la bellezza parla da sé, non credo che abbia bisogno di un testimonial. Poi Cesare di Verona dice che forse sarebbe un buon testimonial se si trattasse di turismo sessuale, così dice. E poi Grazia di Palermo: dopo gli scandali, secondo me, continua a infangare il nostro bel paese. Quindi su questo piuttosto contrari anche sull'accisa sui carburanti, che è stata messa, annunciata almeno dal governo, per cercare di rifinanziare il fondo unico per lo spettacolo e la cultura. Robert dice: penso che farò l'abbonamento al teatro più vicino, almeno recupererò in cultura una parte del maggior costo del gasolio. E Margherita di Udine: non ti rispondo solo perché non voglio iniziare la giornata con un rosario di bestemmie, ma le bestemmie non si dicono mai, anche quando non si è credenti. Adriano di Padova: mi domando, ma di quale cultura stiamo parlando? Cine, panettoni, teatro? Ma che aumentino il biglietto d'ingresso e facciano molte repliche. Quindi lui, diciamo, ha una visione un po' critica dello spettacolo e della cultura in Italia. E poi anche sulla Libia, devo dire che sulla Libia gli ascoltatori che sono intervenuti sono abbastanza favorevoli all'intervento, con qualche perplessità. Ecco, voi cosa ne pensate anche di questi argomenti? Ma è il momento, signore e signori, di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Piangerai come pioggia, tu piangerai. Le foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti. Tu sorriderai e arriverà. E arriverà, arriverà. Alla fine è arrivato proprio qui in studio, diretto diretto oggi, Checco Silvestre, Francesco in realtà, il leader dei Modà. Caro Checco, buongiorno, buon sabato a tutti. Buon sabato a te. Dicevo, scusa, tutta la band mi ha detto che uno sta coltivando il suo hobby, cioè coltivare i rapanelli, un altro è con la ragazza, l'altro è meglio che non si faccia vedere in giro. E quindi siamo io e te, così possiamo parlare negli occhi. Più intimi. Più intimi. Senti, Checco, i Modà non credo che abbiamo bisogno di presentazioni, questa band è rivelazione, però l'avete sentita a Sanremo nell'ultima edizione con Arriverà, appunto, che stavamo sentendo. Però voi il successo avete iniziato già nel 2004, no? Checco? Sì, sì, con... bella, in realtà ancora prima, nel senso che nel 2003 è uscito il nostro primo disco autoprodotto, un EP di 6 brani, si chiama Via d'uscita, però poi i Modà ci sono ancora dal 99, ecco, quindi abbiamo già festeggiato anche 10 anni di carriera. Cosa eravate adolescenti quando avete iniziato? Beh, nel 99 avevo 21 anni, adesso ne ho 33, sono un 78. E i ragazzi, sì, più o meno abbiamo quasi tutti la stessa età, la media è quella. E questa è una favola fantastica che parla proprio veramente di sacrifici, di sogni, di fortuna, perché bisogna sempre ricordarsi che in questo mestiere la fortuna è sempre... È una variabile che ha la sua bella importanza, una, no? Grandissima importanza, sì, esatto. E quindi, la capacità. Sai, aver fatto 4 dischi... L'ultimo è uscito nel 2008 e comunque non essere mai riusciti a farsi notare anche per le cose fatte in passato, che non credo fossero inferiori a quelle che sono state fatte adesso, erano semplicemente meno promozionate, avevamo decisamente meno esposizione. Quindi ecco. Tu puoi dirlo, puoi testimoniarlo che a volte può essere il bel brano quello che ti fa esplodere, no? Come è successo, magari tu ne avevi fatte altre ma non hai incontrato le magari persone non giuste, incontrato le persone la giuste. Persona che aveva l'orecchio giusto anche per capire, no? Assolutamente, sì. Ma sai, magari poi non aveva anche i mezzi, non aveva la forza magari economica per poter investire nel progetto, però questo non significa che magari non ci credeva. Cioè, voi siete prodotti da Ultrasuoni. Adesso siamo prodotti con quest'ultimo disco da Ultrasuoni, che ha fatto un lavoro pazzesco. È stato un lavoro incredibile, bisogna ringraziare tutto lo staff di Ultrasuoni, dal presidente fino a quello che lava i piatti, insomma, perché tu, una squadra quando lavora quando si lavora tutti in squadra, insieme. Esatto, si lavora tutti insieme. Già dischi di platino avete? Abbiamo fatto doppio disco di platino, mi è stato consegnato da mio papà la settimana scorsa. Tuo papà è un tuo fan, quindi... uno di quelli che da piccoletto già ti metteva sulla si strada. Si può dire che oltre ad essere un mio fan è stato sempre il mio papà manager, no? Non che adesso lui si occupi dei miei interessi, io quando dico papà manager intendo che lui ha sempre seguito da molto vicino tutto quello che facevo. Pensa che negli anni passati, quando io mi organizzavo i concerti per i fatti miei nei club piuttosto che nelle piazze, lui si è sempre occupato insieme a me di stare alla biglietteria, di organizzare gli eventi, magari andando ad affittare il locale dove poi si suonava, insomma è stato... Insomma, ci ha creduto su, non è di quei padri che dicono ma no, cosa vai a fare l'impiegato, vai a fare il qualsiasi altra professione. No, beh, mio padre, no? Mi ha fatto studiare fino al diploma, mi ha detto dai, quello prenditelo, perché già sei un ciuccio e se non studi almeno un po' di cultura fatela, se no le canzoni no, come le scrivi, sì, senza se non impari neanche i congiuntivi credo sia difficile poi scrivere canzoni, quindi mi ha fatto studiare, mi sono diplomato in informatica, devo dire che poi anche oltretutto questo indirizzo mi ha aiutato, perché poi sai benissimo che nel momento in cui fai musica, adesso che la musica si è sviluppata moltissimo dal punto di vista informatico, io adesso ho uno studio in casa, riesco a farmi i miei provini, le mie canzoni, le riesco a registrare, provini non quelle definitive, poi quelle si fanno negli però studi, così ti dai già un'idea, però già ti dai un'idea, scrivi, tu sei cantautore, io no? Sono cantautore, okay, ecco. Sì. 800 24 00 24, per quella che è la notizia della settimana secondo voi, tu che ecco così, diciamo, a bruciapelo, se tu dovessi dire una notizia che questa settimana ti è rimasta lì, dire ma su questa cosa ci hai riflettuto, non so, ti sei confrontato con qualcuno del gruppo, con la tua fidanzata da 12 anni, quindi anche lei, sì. Eravate alle medie praticamente, no? Ah, guarda, parlavo prima con Brando, il produttore artistico, e ho detto io Laura ci sto da 12 anni, ma l'ho conosciuta che lei prendeva il pullman per andare alla scuola elementare. E io prendevo il pullman, io prendevo lo stesso pullman, e lei andava, si fermava alla fermata prima dell'elementare, io andavo alla scuola superiore, perché sì, perché in realtà abbiamo 3 anni di differenza, però lei era in quinta elementare, io ero in prima superiore, quindi c'era proprio... Ah, giusto, le medie di mezzo. Esatto, c'erano giusto le medie di mezzo, esatto. Quindi sei, nonostante, diciamo, adesso che ti senti un po' pop star, che lo sei, no? Mi raccomando, perché c'è sempre il rischio quando poi la fama... Le cose, no, sai, che guarda, ciò questo... che fa parte del nostro passato ci sembra sempre un po' demodé a volte. Questa, no? questa è la classica testimonianza della fortuna-sfortuna di non riuscire a farcela con la prima canzone, no? Io ho avuto la fortuna-sfortuna di non farcela, di arrivare al quinto disco ad ottenere la visibilità che adesso abbiamo. Adesso non è che sono diventato una superstar, però ho avuto, in questo momento sto vivendo un momento importante. Come si chiama lei? Si chiama Laura. Laura. E quindi tutti questi passi che io ho fatto sono passi che io conosco molto bene, so da dove sono venuto, so che io la vedo sempre come una scala da 0 a 10 il successo, no? Chi arriva al 10 con la prima canzone non sa che cosa c'è all'1, al 2, al 3, al passo invece 4. Invece tu l'hai capito, è che io sono al 5 adesso, facciamo, no? Però io so che cosa c'è tra lo 0 e il 5, so che cosa ho fatto al passo numero 1, al passo numero 2, al passo numero 3, quindi sai, prima di fare una stupidata, prima di prendere delle decisioni da superstar, come dicevi te, so che probabilmente, siccome ne ho visti cadere tanti dal 10 allo 0, poi nello stesso tempo che ci hanno messo ad arrivare al 10 li ho visti ricadere allo 0, colleghi che ovviamente sono anche amici, che però hanno avuto questa sfortuna, poi a questo punto posso dirlo, di non considerare il fatto della fortuna, come ti dicevo mm-hmm. prima, perché poi quando arrivi al 10 in un attimo dici ah, allora sono bravissimo, e sono basta, il numero 1, cioè, posso esatto. montare la testa, invece no, invece... Senti, poi la commentiamo magari dopo, oppure già possiamo cominciare, anche se Carmelo Lauricella, la parte tecnica, mi conferma che abbiamo la viabilità, o possiamo aspettare ancora qualche secondo, un minuto. La tua notizia, per esempio la Libia, partiamo dalla Libia, no? Sai che questa settimana sicuramente è la cosa dominante, anche se poi uno può, anche gli ascoltatori liberamente, prendere qualsiasi notizia, anche piccola piccola. A proposito dell'intervento in Libia, tu che idea ti sei fatto di questa cosa? Io, la mia idea è che qualunque guerra è sbagliata, cioè questo penso sia un po' l'idea di tutti, perché nessuno vorrebbe le guerre. È chiaro che nel momento in cui, sai, un dittatore come Gheddafi fa quello che fa, bisogna cercare di intervenire in qualche modo. Io non sono d'accordo sui bombardamenti, perché per prendere una persona non significa che per prendere uno devi sparare a tutti per essere sicuro di aver preso anche lui. Quindi sono sicuramente favorevole al fatto di acchiappare lui e dargli la pena di morte, insomma fargli vivere la giusta punizione, no? Ecco, che poi io credo la pena di morte sia adesso per loro, ci sia ancora la pena di morte dalle parti loro, come sa, dalle parti loro, sì, dipende poi da chi viene giudicato. Beh, Saddam, se non sbaglio, c'era la pena di morte, quindi suppongo sia la pena di morte, se c'è il carcere a vita, qualunque cosa ci sia, insomma, il massimo della pena per lui. Però io non interverrò in questo modo. Io l'intervento che io vedo in Libia è quello che sì, che l'ONU intervenga, l'ONU, ma intervenga come una sorta di forza di Stato, nel senso un aiuto alla forza di Stato. Quindi intervenire nel paese cercando di proteggere le persone che non c'entrano nulla da quelli che invece stanno scatenando, dai ribelli, no? E poi con delle forze speciali, perché sicuramente... Però i ribelli sono contro Gheddafi, quindi la situazione è un po'... bisognerebbe sostenerli. Sì, però ci sono i ribelli contro Gheddafi, ma ci sono anche i ribelli che sparano sui civili, cioè, quindi bisogna capire esattamente... bisogna proteggere quelli che veramente si vogliono astenersi dalla violenza, dalla guerra, quelli bisogna proteggere. E per proteggerli bisogna avere, come noi in Italia, abbiamo la polizia, abbiamo i carabinieri, che insomma bisognerebbe mettere delle forze anche dentro quel paese per cercare di difendere persone che poverine purtroppo non hanno la possibilità neanche di difendersi. Quindi io interverrei in questo modo, cercando poi attraverso altri tipi di forze, che ne so, i servizi segreti, forze speciali, io non lo so, ma non sicuramente con i bombardamenti, di andare a cercare questo criminale dittatore e fargli pagare la giusta pena. Piace, godi meglio farlo al buio sottovoce, graffiando la mia pelle e mordendomi le labbra fino a farmi male, bene, senza farmi capire se per te più sesso è amore. Poi fuggi torni e piangi, non rispondi, sparisci e ogni 4 mesi torni. Sei pazza di me come io lo son di te, resisti. Piace moltissimo questa canzone dei Modà, Sono già solo. Mi piace perché ha questa carica sensuale, forte, un po' disperata, passionale, ma anche perché si ribalta, mi sembra uno stereotipo, no? Di solito è lei che aspetta per mesi che lui ritorni, quell'attimo lì, due capriole nel lenzuolo, poi di nuovo lui scappa e poi lei che lo aspetta. Invece mi sembra ribaltata Checco Silvestri, la situazione. Sì. Questo mi piace. Così. Sì, sì, beh, ma diciamo che questa è una canzone un po' per tutti, nel senso che comunque tutti noi credo che nella vita abbiamo una persona della quale è difficile dimenticarsi, anche quando la tua vita va benissimo, c'è sempre questa persona che in un modo o nell'altro ritornerà sempre nei tuoi pensieri, quindi forse ha avuto molta presa sulle persone proprio per questo, perché ognuno di noi nasconde sempre qualcuno che non smetterà mai di essere presente nella tua vita in un modo o nell'altro. Roberta Giordano sempre con voi, qui col mio opinionista estemporaneo di oggi. Abbiamo fatto questo esperimento scientifico con Checco dei Modà, cantautore dei Modà. Vedere anche, sapete che mi piace variare un po' con gli ospiti dai vari ambiti della cultura, del giornalismo, dello spettacolo, cioè è interessante sapere le opinioni che hanno i personaggi appunto dei settori differenti. Io comincerei già a sentire, prima di collegarci con il pianeta Marte, direi di sentire un ascoltatore terrestre che è Ferdinando da Milano. Ferdinando. Buongiorno Roberta. Buongiorno Ferdinando. Volevo dire, a proposito del finanziamento per la cultura dei 2 centesimi lì sulla benzina, a me sì, non dispiace pagarli, però vorrei anche suggerire il fatto che ci sono orchestrali della Scala che prendono 15.000 euro al mese. C'è magari qualcuno che fa piccolo teatro che prende solo 50 euro, 100 euro la serata. Da diminuire o da bilanciare bene i costi. Chi va a fare un programma in una televisione che prende 200.000 euro per mezz'ora? Cioè, è un peccato, capito? Paghiamo tutti, è giusto, perché la cultura è un bene essenziale per un paese, però cerchiamo anche di ridimensionare i costi. Quando a Gheddafi, io direi di non ammazzarlo, di non fare l'errore che è stato fatto con Saddam, con Mussolini, perché questi dittatori hanno, se presi vivi, hanno molto da dire alla gente, molto. Ha sentito il figlio di Gheddafi quando ha fatto la dichiarazione alla televisione che ha detto che hanno finanziato Sarkozy la campagna elettorale, subito è partita la Francia per farlo fuori. Cioè, siamo un po' attenti a queste cose. Grazie Ferdinando. 800 24 00 24. A proposito di quanto diceva Ferdinando sulle accise, quindi l'aumento diciamo dei carburanti di 2 centesimi per rifinanziare, visto che sono state tante manifestazioni, no, contro questi tagli alla cultura, vado sul Corriere.it di oggi. C'è un servizio, inchiesta di Sergio Rizzo, che bene conoscerete, del Corriere, che fa questo articolo intitolato "Dall'indennità di frac a quella di umidità, tutti gli sprechi degli enti lirici italiani". Quindi è vero che la cultura subisce appunto dei tagli, pochi finanziamenti, a volte anche quasi dell'indifferenza, però si dice insomma adesso però è anche necessario tagliare lì dove ci sono veramente dei sprechi, visto che tra le varie indennità eccetera cita questa del frac, quella dell'umidità. Tu, Checco dei Modà, fai parte del mondo dello spettacolo, cosa ne pensi di questo aumento dei carburanti per ritornare a finanziare la cultura e lo spettacolo? Penso che l'arte in generale abbia subito gravissimi danni negli ultimi anni, legati proprio al discorso della pirateria. Io parlo di musica, parlo di film, quindi parlo di cinema in generale, ma poi allo stesso tempo quando viene attaccata l'arte in generale, poi ne risentono proprio tutti, perché proprio se quando vanno a mancare i soldi. Quindi credo sia una bella iniziativa, anche perché tanto la benzina l'aumentano lo stesso anche senza finanziare. Senti, però devo dire, la cosa curiosa è che i benzinai si sono tutti schierati contro, stranamente, poi dicendo che insomma già sta aumentando, vi prego non fate, hanno detto insomma in coro. L'opposizione dice se si decidesse, se ci fosse ancora un possibile margine di trattativa sul fatto di accorpare i referendum che si faranno a giugno e le elezioni amministrative che si faranno a maggio, invece di dividerli, accorpandoli, avremo già il risparmio per evitare di aumentare i carburanti. Potrebbe essere una soluzione, secondo potrebbe te? Essere una soluzione, ma invece io proporrei una cosa molto più semplice, che è quella di combattere, come dicevo prima, la pirateria. Di... Però questo vale per i dischi o per i film, no? Poi per il resto, i teatri. Però ti assicuro che il fatto che vengano a mancare dei soldi all'interno dello spazio discografico e dello spazio cinematografico va a comportare la crisi anche negli altri ambienti. Dice, io su questo catena, sì, assolutamente, perché la musica e il cinema fanno parte poi fondamentalmente, cioè il teatro per esempio io lo leggo al ramo del cinema, per esempio la musica classica, quindi queste altre forme di le leggo alla musica in generale. Io quindi credo che tutto sia legato tra loro e questa grande crisi si è sentita negli ultimi, credo, 10 anni veramente in maniera profonda. Infatti, se tu ci fai caso, sono veramente pochissimi gli artisti nuovi che vengono scoperti durante l'anno, a parte i talent show che scoprono artisti perché comunque fanno parte di un format televisivo e che quindi quello è il loro lavoro, quello di ricercare di lanciare dei talenti, una cosa importantissima, bellissima. Però scoperti dalle case discografiche veramente ce n'è pochissimi. Ma non so se è solo una questione poi di risorse, di soldi, oppure certo anche il cambio della mentalità commerciale. Ma io da azienda, se ci fosse questa crisi, anch'io non rischierei a investire dei soldi su una su un giovane che non so se poi alla fine mi può dare dei risultati, e preferisco investire le mie risorse su un artista che invece mi ha già fatto dei numeri, ed è per questo che poi alla fine si sentono... E di numeri ne hanno fatti modai, quindi loro hanno investito opportunamente. Adesso direi che, ecco, siccome questa è l'unica trasmissione che ha dei collegamenti settimanali anche con un altro pianeta, passiamo pure al collegamento con Marte. Riflessioni da Marte. Certo, a guardare gli esseri umani da quassù, no, da Marte, sorge piuttosto cospicuo il dubbio che i veri alieni alla fine siano loro, i bipedi terrestri, e non gli abitanti di Marte. Anche, per esempio, nell'impressione che danno gli umani di voler ripercorrere l'evoluzione darwiniana all'incontrario. E, tra l'altro, si lanciano nelle guerre, ma non le chiamano guerre, si mettono invece attorno a un tavolo, non riescono a decidere una linea comune, ma partoriscono con grande estrosità un nome da dare a questa azione non ben identificata, e la chiamano... La chiamano estate. No, che estate? La chiamano, dicevo, Odissea all'alba, anche se è iniziata al tramonto. Tutti a cercare un'esegesi esoterica, strategica di questa epica espressione, Odissea all'alba. E poi, candidamente, in questi giorni, un portavoce delle forze americane in Africa ha detto che si tratta di un nome scelto del tutto casualmente. Era solo necessario, ha detto il portavoce, per alcune regole militari, che iniziasse però. Dunque, poteva essere, per dire anche, o per Bacco. Comunque, ci avete fatto caso che i due massimi funesti avvenimenti delle ultime settimane, e cioè la catastrofe giapponese e la tragedia della Libia, la tragica situazione libica, pur casualmente e nella totale differenza naturalmente delle due situazioni, hanno un elemento in comune? L'energia. In Giappone, quella atomica che ha fatto spostare di parecchi centimetri l'asse delle convinzioni occidentali sul nucleare, e dall'altra in Libia il petrolio. Petrolio che ha fatto decidere, parrebbe sotto la motivazione umanitaria, a taluni di intervenire, a tal'altri di temporeggiare, ad altri ancora di evitare di intervenire. Anche se tutti danno come l'impressione, se interventisti, di volerselo accaparrare il petrolio, se simil pacifisti di aver paura intervenendo di perderlo. Insomma, una situazione piuttosto nebulosa, diciamolo. C'è poi chi la guerra se la fa in casa da sé, come l'ultimo uomo che questa settimana ha fatto fuori l'ennesima donna, sua moglie, affucilate davanti ai figlioletti. Ma io volevo solo farla impaurire se difeso l'uomo, perché effettivamente, diciamolo, chi non ha in casa, come il detersivo per la lavatrice, anche un fucile a pallettoni, magari custodito nella dispensa insieme ai biscotti, per impaurire il partner nei momenti di battibecco, puntando dritto dritto al cuore, via, a chi non è capitato una cosa del genere. Ma a fare chiarezza nella confusione, questa grande confusione di idee umane, ci pensa il presidente venezuelano Chavez, il quale, dopo aver detto nei giorni scorsi che il seno rifatto non è socialista, questa settimana ha assicurato: non è da escludere che vi sia stata una qualche forma di civiltà su Marte, ma forse, ha concluso Chavez solenne, vi sono arrivati il capitalismo e l'imperialismo ed hanno distrutto tutto. Se lo dice lui. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia, extraterrestre, vienimi a pigliare. voglio un pianeta su cui ricominciare. E torniamo con i piedi per terra subito, poi voglio chiedere dopo a Checco se pensa che ci sia stata vita su Marte, se il capitalismo abbia potuto distruggere anche lì, ma prima sentiamo Antonio da Roma, all'800240024, Antonio. Pronto? Ecco, pronto, sì, siamo qua. Sono qua. Niente, io volevo fare un semplice intervento, no? Qua si parla di guerra umanitaria per difendere i diritti civili. Qua si stanno difendendo interessi del petrolio, stop, smettiamolo con questa menzogna dei problemi umanitari, se no dovremmo fare guerra a mezzo mondo, prima di tutto la Cina, dove c'è ancora la pena di morte, poi ci sono altri paesi, siccome non ci possiamo permettere di fare la guerra a mezzo mondo, non possiamo fare guerra dove non ci sono interessi economici, siamo andati in Libia proprio per questo motivo qua, solamente per il petrolio. Stop, è una bugia dire per difendere i diritti umani di queste persone o per motivi umanitari, eccetera. Solamente per il petrolio, per il denaro. Stop, solamente questo. Antonio, dimmi solo una cosa, è stato molto lapidario, preciso. Voglio chiederti questo, tu che cosa faresti nei confronti della Libia in questo momento? Cioè, come ti comporteresti? Ma innanzitutto cercherei di, a livello diplomatico, se non si vuole intervenire a livello militare, di trovare una mediazione, quindi con Gheddafi. Sì, una mediazione a livello diplomatico, e si possono fare gli embarghi come ha proposto la Germania, no? Sul petrolio, sì, e sui pagamenti. Un embargo è fino a che la dittatura cade, perché poi a un certo punto c'è una sollevazione popolare, in fin dei conti, no? Grazie Antonio. Sono soddisfatta, grazie, delle risposte che mi hai dato, nel senso che hai risposto, poi che uno possa essere d'accordo o meno. Tu che dici, Checco? Preferisci... Vabbè, lui ha ragione, Antonio ha ragione, in parte il fatto del petrolio ci sta, però il problema è che siccome esistono le Nazioni Unite, siccome è agli occhi di tutti il fatto che ci sia una guerra civile e comunque che ci siano delle persone che scappano da quel paese, lo vediamo praticamente tutti i giorni al telegiornale. La povera credo Lampedusa. Quindi credo che comunque l'intervento per difendere le persone, quello ci voglia comunque, ma l'intervento, ripeto, fatto proprio come una sorta di vigilante, cioè di vigilare, di proteggere le persone, non un intervento per bombardare, perché a quel punto poi, come dice anche Antonio, lì se si fanno delle cose di questo tipo, che spacchi tutto per prenderne uno, allora è ovvio che ci sia, a quel punto c'è anche l'interesse al fatto del petrolio, ma questo lo sappiamo da tanto, insomma, non è che lo scopriamo oggi. Cioè, però, non siamo ipocriti, insomma. No, certo che no. Sentiamo prima della prossima pausa, ancora un attimo, volevo sentire Alessandra dalla provincia di Como. Sì, buongiorno. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Roberta, io volevo riportare una notizia letta su un giornale. Si può nominare o innominabile? Sì, l'avevo letta su Repubblica, sì. Che una notizia che si riaggancia al discorso che stavate facendo prima sul figlio del dittatore, sì. No? Una notizia uno un po' paradossale, tanti. Perché leggevo che si è laureato lui alla London School of Economy, dove vengono formati fiori, sì, di analisti, di economisti, governanti, sì. Presidenti, eccetera, con una tesi sul valore delle democrazie. Allora la cosa era veramente paradossale, perché magari lui l'ha studiato proprio per evitare di imporre la democrazia, diciamo, no? Ognuno, sì, invece diceva, siccome di appunto la tesi dovrebbe essere il punto di arrivo di un percorso anche di formazione e maturazione interiore, questa tesi o è stata comperata o appunto è stata scritta da qualcun altro, ma poi il giornalista diceva, ma qui si sono formati anche i futuri, i vecchi economisti che hanno poi decretato la fine dell'economia della City, sapete il periodo in cui c'è stato il crollo, no, della City, cos'è stato un 3-4 anni fa praticamente, quindi dicevamo, io da insegnante, no, che lavoro in una scuola pubblica, dico, belle queste università dove si spende una marea di soldi per avere poi questo tipo di formazione, quando magari sarebbe meglio forse studiare per dire alla Statale di Milano, comunque magari. Beh, non è così poveracci, non potevano sapere alla London School of Economics che sarebbe fuoriuscito, diciamo, il figlio di un dittatore. Dimmi una cosa prima di salutarci, ti fa più paura in questo momento, proprio una risposta così molto breve, molto sì. Rapidale, più il nucleare, l'emergenza giapponese, il povero Giappone, oppure quindi tutto il pensiero sull'energia nucleare, oppure la situazione in Libia in questo momento? No, mi fa più paura la situazione in Libia, perché nel nucleare vedo comunque molte persone che si stanno attivando, si stanno dando da fare, invece là purtroppo abbiamo a che fare con mentalità così diverse, così ingovernabili, che sono... Quindi ti pare più ingovernabile una situazione come la Libia che quella del nucleare? Perché ha a che fare con gli umani che sono ingovernabili, insondabili fino in fondo. Grazie Alessandra, te lo chiedevo perché leggevo questa ricerca che viene dagli Stati Uniti, secondo la quale sembra che in questo momento, per l'escalation del conflitto in Libia, le devastazioni in Giappone, eccetera, eccetera, la cosa che va più di moda è il bunker antiatomico. Ritengono che questa sia... stanno spendendo fior di quattrini le persone per farsi fare questo bunker. Non so se tu, Checco Silvestre, c'hai un bunker sotto casa. Io c'ho il mio studio di registrazione, ecco, come ti, bunker ti in taverna, lì, mi chiudo lì, scrivo le canzoni, quando arriva arriva. Questa musica, naturalmente, perché oggi ho deciso di avere come opinionista estemporaneo, io Roberto Giordano, ho deciso di avere Checco Silvestre, il leader dei Modà, che sono usciti non da molto, freschi freschi, con Viva i Romantici. Mi chiedevo se effettivamente, con tutto quello di tragico e di pauroso di cui parliamo costantemente, forse tutto sommato i Romantici si stanno bene, che dici? Ma devo dire che poi io il romanticismo lo vedo... per me il romanticismo ha più sfumature. Il romanticismo non è solo il mazzo di fiori e basta, cioè, o piuttosto che l'appuntamento a lume di candela o la frase perfetta. Il romanticismo per me è tante piccole cose: ricordarmi di essere figlio di mia mamma e di mio papà a 33 anni, di essere da loro a pranzo la domenica, come quando avevo un anno, due anni, tre anni. È carino. Per me il romanticismo è avere sempre gli stessi amici e ricordare i bellissimi momenti della mia infanzia. Questo è romanticismo in generale. Poi io probabilmente magari non scrivo, non parlo di argomenti chissà quanto impegnati nelle mie canzoni. Quando parlo di cose, cerco di essere più leggero possibile con la musica, perché come possiamo vedere, tutto quello che succede nel mondo è già abbastanza pesante. Poi romantico è anche, scusa ti interrompo, essere a 12 anni con la stessa ragazza, no? Ah beh, sì, ti auguro di andare avanti giù a qualche altro secolo. Cominciamo di nuovo a sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori all'800 24 00 24 per scoprire qual è secondo loro la notizia della settimana. Andrei su Rinaldo dalla provincia di Chieti, quindi siamo in Abruzzo. Rinaldo? Pronto? Pronto, sì. Allora, buongiorno, ciao a tutti. Ciao a te Rinaldo. Allora, io volevo dire solo una piccolissima cosa. Mi è sembrato che da questa guerra... Quella verso la Libia? Sì. Sì, quella della Libia. Sia successo un piccolo qui pro quo, nel senso che c'è stata una grande fretta di partire direttamente alla, come si dice, all'attacco. Armiamoci e partite, sì. Sì, ecco. E oggi riscontriamo delle deficienze, proprio per una questione di accordo. Stato deficienze anche in tutti i sensi, ma comunque sì. Stato italiano, stato, cioè mi sembra che ci sia stato un balzello a favore di questo Tomahawk che costa €1 milione ogni volta che viene sganciato. Mi sembra che questi missili costino, insomma, l'ira di Dio. Sì, rifornire in volo un aereo costa dalle 250-500 mila euro. Quindi no, i costi sono altissimi, proprio persone, ieri. A fronte di quelle persone che in Italia oggi vivono giorno per giorno, non possono fare più progetti, non dico a breve termine, a lungo termine. Non so, amore, ci facciamo 10 giorni fuori, non li possiamo fare più questi progetti. Non sei più, non puoi essere più romantico, Rinaldo. Dimmi una cosa, sì, Rinaldo, brevemente, visto che il tempo comincia a correre, cosa faresti tu in questo momento se fossi il governo italiano? Adesso io è chiaro che devo solo che alzare le spalle e cercare di, come dire, mettere la pezza, ma io avrei con delle politiche appropriate già 20 anni prima accorgermi di questi capi di Stato che non sono capi di Stato progressivi, che portano il popolo ad una maturità culturale, politica, sociale. Guarda i quattrini che hanno trovato addosso a questo Cristiano, se così lo vogliamo chiamare. Rinaldo, miliardi e miliardi nascosti. Grazie Rinaldo, diventa complicato, ci dovevamo accorgere prima che questi sono durati 30-40 anni, no? Dall'Egitto alla Libia, alla Tunisia eccetera, e dice un po' tardi. 800 24 00 24, tra l'altro vi siete accorti questi giorni non è un problema che riguarda solo la Libia, per esempio per la Siria è venuta fuori un'agenzia ANSA di poco fa, centinaia di manifestanti sono radunati oggi nuovamente nella piazza principale di Daraa, che è la città epicentro delle proteste senza precedenti nel sud del paese, della Siria. Sentirei Nino dalla provincia di Bologna. Nino. Un saluto a tutti. Allora, da volevo tutti, dire, sì. Io sono sempre stato molto critico nei confronti di Gheddafi. Tutta questa situazione che sta avvenendo me lo sta rendendo quasi simpatico. Oh. È assurdo, ma l'atteggiamento che c'ha l'Occidente nei confronti di Gheddafi in questo momento è veramente un atteggiamento aggressivo, imperialistico. La Francia ha fomentato la rivolta. Nino, perdonami se ti interrompo, però diciamo, ognuno poi può esprimere le sue opinioni giustamente, no? Su un personaggio, un dittatore, uno statista, quello che è abbastanza oggettivo, al di là di quello che poi è giusto fare, che ha insomma, diciamo, massacrato diversi civili nel suo paese. Come fa a esserti simpatico? Attenzione, io non sto parlando, no, sì. Io sto portando il ragionamento all'esasperazione. Ah. Chi ha dato il patentino di democrazia ai rivoltosi? Quante volte noi occidentali abbiamo gridato alla libertà di un paese e poi abbiamo scoperto che chi ha preso il potere era peggio di quello che c'era prima. Su questo siamo d'accordo, una vecchia storia, sì, dai paesi passati, dal Sud America, ma anche in Iraq, in Afghanistan, un gran caos e alla fine insomma non si è ancora divenuti ancora in quelle situazioni a una conclusione positiva. Grazie Nino. 800 24 00 24. Ora vorrei far sentire Carmelo al nostro Checco Silvestre, il leader dei Modà, un audio. Ce l'abbiamo? L'Italia è il paese che ha regalato al mondo il 50% dei beni artistici tutelati dall'UNESCO, più di 100.000 chiese e monumenti, 40.000 dimore storiche, 3.500 musei, 2.500 siti archeologici e più di 1.000 teatri. Lo sapevi? Approfitta delle tue vacanze per scoprire l'Italia che ancora non conosci, questa nostra magnifica Italia da scoprire e da amare. Lo sapevi, Checco? Sì. Lo sapevi? Sì, lo sapevo. Che meravigliosa è l'Italia, o che Berlusconi ha fatto questo spot per incrementare il turismo in Italia? No, beh, che l'Italia è meravigliosa lo sapevo, che custodivamo un patrimonio artistico così alto lo sapevo. E come testimonial ti abbia piace? Fatto questo... No. Non ti piace? Vabbè, è normale, il Presidente del Consiglio è normale che insomma, l'ha fatto lui, anche perché comunque in Italia in questo momento... quello che è il potere politico in mano, e quindi è giusto che rappresenti, che rappresenti invece... la forma turisti, la forma di turismo in Italia a parte sua, però insomma ci sono troppe cose che si potrebbero dire adesso, però pensiamo solamente all'Italia turistica, è bellissima, posso farlo io lo slogan oggi? Poi, ragazzi, sì. L'Italia turistica è bellissima, io l'ho girata quasi tutta, devo dire che ci sono posti meravigliosi, invece di andare all'estero cerchiamo di andare in Italia a fare le nostre vacanze, ma soprattutto lo dico a tutti quelli che hanno invece gli alberghi eccetera eccetera, per aiutare il paese cerchiamo di tenere i prezzi giusti, perché poi la gente un po' a volte scappa anche all'estero a fare le vacanze proprio per una questione di prezzi, quindi c'è crisi, cerchiamo di aiutarci un po' tutti. Buonanotte a tutti quelli come me, che dopo mezzanotte inizia il tempo di aspettare il sole. Buonanotte a tutti quelli come me, che per sognare non han più bisogno neanche di dormire. E basta non guardare. E possiamo dirlo, viva i romantici! portarci via con tutte le cose brutte, nefaste che sentiamo. I Veri Romantici, tra l'altro, è il titolo dell'ultimo album dei Modà. E ho qui proprio di fronte a me, occhi negli occhi, Checco Silvestre, che è il leader. Francesco o Checco, come preferisci? È uguale, sei un'amica, Checco. Grazie, Checco. Tutta la band è affaccendata in altre cose. Hanno detto no, fai parlare lui, che è l'uomo del gruppo, quello che può accettare questa sfida. Che puoi dire più stupida che possibile. Non volevo dire. 800 24 00 24. Io direi di sentire subito, caro Checco, sentiamo un po' che cosa ha da raccontarci come fotografia della settimana il nostro, ecco, senti la galoppata, è questa che si corre molto veloci con lui, il nostro Stefano Andreoli, che è l'ideatore di Spinoza.it, il blog satirico più cliccato della rete, così dice lui, poi non lo so. Stefano, Buongiorno Roberto, buongiorno Checco. Buongiorno. Settimana molto densa, ho seguito la discussione sulla cultura, sulla musica, eccetera. Checco ha detto che la musica negli ultimi anni ha subito dei grandissimi danni. Ecco, io sono contento di questa autocritica e la apprezzo molto, quindi saluto. Dopo lo acchiappiamo, Giorgio. Si sta scherzando. Checco, tranquillo, vai tranquillo. Continua a cantare, Checco, vai avanti, non analizzare la guerra in Libia, è meglio che canti. Sì, va bene. Io lo schiaffeggio sempre, poi Stefano. Cambiamo discorso, sappiamo che capitano molte cose, una di queste, Galan si insedia alla cultura. Nuovo ministro, sì, e Galan, Romano invece... È Romano, come sappiamo, i trascorsi. Non dilunghiamoci tante robe, sarebbero da dire. Galan si insedia alla cultura anche perché è difficile immaginare l'opposto. Vabbè, questa lasciamo... Passare avanti, apprensione anche in Italia per la nube radioattiva. Anche mia, apprensione, sì, nei tuoi confronti. No, ma lì a Milano avete l'Ecopass, che problema ci sono? La nube. Vero. Si guarderà bene da entrare nel centro storico. Lo voglio sperare. Intanto in Giappone già comincia la ricostruzione. Gli operai hanno impiegato solo 6 giorni per rifare l'autostrada. Un'autostrada. Come la 3, la Salerno-Reggio Calabria, no? D'altra parte vorrei vedere con Fukushima alle spalle, ti viene un po' di premura e fai prima. Pensa che i lavori di ricostruzione sono stati così veloci e le ruspe le hanno beccate l'autovelox, cioè l'utenza. Le ruspe sono state e si beccano pure la multa pur lavorando in emergenza. Incredibile. Veniamo chiaramente al fatto della settimana, guerra in Libia. Casini attacca Gheddafi. Hanno una ex in comune, quindi diciamo sono lecite le critiche. Convocato a Palazzo Chigi un consiglio dei ministri straordinario. Sì. Sai perché è straordinario? Perché non si è parlato di giustizia. Per la prima volta non si è parlato di giustizia, quindi era abbastanza straordinario. I seguaci di Gheddafi in Libia sventolano fazzoletti verdi. Pensa, anche là gli idioti si riconoscono così. Incredibile. Ne avrei un'altra, non so se dirla. Mannaia, per favore, Carmelo. Pare che Gheddafi abbia, già pronta, sento la sigletta, pare che Gheddafi abbia promesso ai suoi miliziani 350 euro per ogni cadavere. Sì. Ecco dove è finito Mike Bongiorno. No, scusate. Alla prossima. Tira giù, Carmelo. Guarda, ogni volta è un guaio. Rischio le manette ogni volta. Senti, invece muoviamo un po' più rilassati, anche se il tempo stringe tantissimo, con Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Valeria, io direi che la parola della settimana da analizzare potrebbe essere Odissea. Che ci dici di Odissea, il nome della questa missione? Ma insomma, qualcosa avevi già detto tu, no? Il fatto che i generali americani l'hanno scelta casualmente. Sì. E forse non hanno pensato al fatto, non sono stati a porsi il problema che Odissea, e quindi naturalmente il nome dato al poema di Omero, no? L'Odissea, che narrava le vicende di Odysseus, cioè il nostro Ulisse, diceva non hanno pensato al fatto che la parola nel tempo, visto che si trattò di un viaggio lunghissimo e molto travagliato, la parola nel tempo ha finito per assumere il significato di serie di peripezie, vicissitudini, avventure anche dolorose, lunghe e drammatiche. Ma come sempre, per finire un po' sorridendo, voglio ricordare che Operazione Odissea era il titolo di una miniserie televisiva trasmessa nel 1999. L'interprete principale era Luca Zingaretti, che faceva naturalmente la parte di un poliziotto soprannominato Omero. Non ricorderò come finiva la serie e come finiva soprattutto perché vuoi levarci la sorpresa? Ecco, così questa volta i generali americani cercheranno sicuramente il DVD per ispirarsi. Grazie Valeria Della Valle. Grazie a te. Ciao Valeria. Ciao. Sentirei molto brevemente adesso, visto che siamo quasi in chiusura, mentre Checco pensa a una sua conclusione, tra pochissimo parleremo di calcio ma proprio in un flash, Francesca Carla. Dal Bugherio, vicino. Buongiorno a tutti. Ciao Francesca, riesci a essere proprio tac, così sarò una roba super veloce istantanea. Prima di tutto, un un abbraccio fortissimo a Checco dei Modà, perché mi ha fatto emozionare. Grazie. Prima con la canzone La Notte, io sono una romantica, e poi con quella di Sanremo. Grazie. Hai visto? Mi piace da impazzire. Trasversali, Modà. E io devo dire, ho la bellezza di 70 anni. Hai capito? Grazie, io sono felicissimo. Sono giovane però, giovanissimo. Ma si sente infatti, sente. Allora, la mia notizia purtroppo non è allegra, è la morte di Elizabeth Taylor, una donna bellissima. Io ho visto di Elizabeth Taylor tutti i film, dal primo, Torna a casa Lessi, fino agli ultimi che film. Aveva 9-11 anni. Una grandissima perdita questa è stata effettivamente, sì. Francesca Carla, è davvero l'ultima delle grandi dive, una personalità anticonformista, una grandissima, grande spessore anche, no? Le sue battaglie, veramente un personaggio con il quale se ne va tutta una generazione di attori, di artisti, anche in senso alto. Francesca, ti ringrazio, grazie anche del tuo entusiasmo, che ecco, secondo me conclusione migliore di una signora ascoltatrice settantenne, visto che uno dice ma piacciono più ai giovani, alle ragazze, alle ragazze. Invece no, perché questa è una cosa che la gente pensa, ma chi non conosce Modà e non segue i concerti di Modà non la sa, invece ai concerti di Modà ci sono le famiglie, ci sono i bambini, ci sono gli adolescenti, ci sono gli anziani, ci sono gli adulti, tutte le generazioni, ci sono tutte che è la cosa migliore, questa è la cosa, no? Più bella, aver riportato le famiglie e non avere un target nella nostra musica è la cosa migliore che ci poteva succedere. Quindi viva i romantici. E per chiudere, Checco, io penso che tu sia un appassionato di calcio. Molto. Senti, che ne pensi della gaffe del candidato a Bologna per le prossime amministrative come sindaco, Maurizio Merola, che ha detto spero che il Bologna vada in A? Non l'avevo neanche sentita questa. È grave. Dov'è il Bologna? È in A. Sì, lo so benissimo. Oltretutto Gianni, che ci ha presentato a Sanremo quest'anno, è un grandissimo tifoso, è entrato nella dirigenza. Gianni Morandi è rimasto sbiancato. Tu sei tifoso di cosa? Io sono tifoso del Napoli. Del Napoli, pur essendo milanese? Sì, perché ho papà e nonni napoletani e quindi sono tifoso del Napoli da quando sono l'unità piccolino. L'unità d'Italia che praticamente si incarna dentro Checco Silvestre dei Modà, quindi ottima continuazione. Nazione Modà con il loro disco, grande successo, viva i romantici. Grazie. Da Roberta Giordano, Serenio Rizzotti, a tutti.